Portare scultura Monteverde. Rosso. Monte Rosso. Complementare, magari. Allora, quanto alto? Secondo me, ma non saprei, però sentirmi. Ah, giustamente, voi siete.